Soundcheck. Il suono della musica di Gegè Telesco. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo, siamo pronti per dare il via al soundcheck, un'altra prova del suono qui su Radio 24 con puntate speciali che ci accompagneranno con tanta ottima musica fino al 6 di gennaio. Il via oggi con il trio del pianista Ramsey Lewis, musicista nato nel 1935, grandissima personalità della black music, pianista, compositore, arrangiatore, ma anche una eccellente personalità nella comunicazione musicale in radio e in televisione negli Stati Uniti. Pensate che Ramsey Lewis, che è ancora in attività, l'estate scorsa l'abbiamo visto in concerto con Didi Bridgewater, ha ricevuto 7 dischi d'oro e 3 Grammy Award, avendo registrato oltre 80 album. Qui lo ascoltiamo dal vivo con la sua celebre versione del brano The In Crowd, brano scritto da Bill Page, dal vivo nella metà degli anni 60 in un bellissimo club a Washington DC. Ramsey Lewis al Sound Check di Radio 24. E questa è la versione live del trio di Ramsey Lewis di un brano di John Lennon e Paul McCartney scritto nel periodo dei Beatles. Il brano era A Hard Day's Night, e fra i meriti di Ramsey Lewis c'è anche quello di aver motivato il suo batterista che per un certo periodo ha accompagnato il trio di Ramsey Lewis, chiamato Maurice White. Maurice White di lì a poco diventò celebre come leader, compositore e arrangiatore di una band chiamata Earth, Wind and Fire, e anche gli Earth, Wind and Fire hanno reso il loro tributo ai Beatles con questa favolosa versione di Got to Get You Into My Life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Il sound degli Earth, Wind and Fire, band guidata dal loro leader Maurice White, artista nato nel 1941, che proprio nel 1969 mette su questo strepitoso organico che spaziò musicalmente attraverso vari generi musicali, tenendo fede però al funk, al groove, all'R&B, la soul music, e spaziando anche molto spesso per motivi commerciali nella disco music. La carriera degli Earth, Wind and Fire è costellata da premi ed eccellenti risultati commerciali. In 40 anni di carriera hanno venduto circa 90 milioni di dischi, ricevuto 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6. Hanno inoltre ottenuto 12 nomination agli American Music Awards, trionfando 4 volte. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, ricevendo anche una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Qui gli Earth, Wind and Fire con uno dei più grandi successi, September. Dal sound degli Earth, Wind and Fire, diretti da Maurice White con la voce di Philip Bailey, al soundcheck di Radio 24 arriva un altro pioniere del soul, anche lui batterista ma soprattutto vibrafonista di grandissima classe, oggi considerato il papà del new soul. Si chiama Roy Ayers. Can't you see me? Il brano è Can't You See Me? I'm on top. We'll be right back. sempre in contatto con il soundcheck di Radio 24, con il sound dei Jazz Crusaders, anni 60, anche loro pionieri del soul jazz, con questa loro versione di It's Your Thing degli Allay Brothers. I Jazz Crusaders, formati da Joe Sample al pianoforte, Stixie Hooper alla batteria, Wilton Felder al sassofono e Wayne Anderson al trombone, hanno spianato la strada a band diverse, e fra queste anche una band bianca chiamata Average White Band. Dalla Scozia, con furore negli anni 70, l'Average White Band creò Pick Up the Pieces. E a cavallo degli anni 60, primi anni 70, c'era un'altra band che faceva furore nelle radio, il sound dei Blood, Sweat and Tears, sangue, sudore e lacrime, una super band molto versatile che ha portato con un sound diverso al successo anche composizioni scritte da Laura Nero, James Taylor, gli stessi Rolling Stones, spaziando anche nel repertorio di Billie Holiday fino ai Rick Satie. Blood, Sweat and Tears con il loro più grande successo, intitolato Spinning Wheel, al soundcheck di Radio 24. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. E nella puntata di oggi qui al soundcheck di Radio 24 stiamo imperversando dai pionieri del soul jazz fino alle band più famose del periodo a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70, band come gli Steely Dan, gruppo americano composto e creato da due strepitosi musicisti: Donald Fagen, cantante, tastierista, compositore, eccellente producer, pignolissimo nel fare musica, affiancato dal suo alter ego Walter Becker, chitarrista e bassista. I due si incontrarono nel 1967 al Bard College di New York e subito dopo cominciarono a suonare in band locali, fin quando nel 1969 Fagen si laureò e i due si trasferirono a Brooklyn, dove si unirono ad un gruppo chiamato Jay and the Americans fino al 1971, e dopo aver lavorato alla colonna sonora di un film i due si trasferirono a Manhattan sperando di affermarsi come cantautori professionisti, e naturalmente questo successe quando misero su gli Steely Dan, un progetto unico che ancora oggi fa scuola. Steely Dan al soundcheck di Radio 24 con Do It Again. Soundcheck, il suono della musica. Fagen e Walter Becker, che qui abbiamo ascoltato con un altro successo degli Steely Dan intitolato Peg, nel 1981 si dividono e soltanto dopo 20 lunghissimi anni di attesa i loro fans li ritrovano nel 2000 con un altro album meraviglioso intitolato Two Against the Nature, e da questo album chiudiamo il soundcheck di Radio 24 con la bellissima Jack of Speed. Grazie a tutti per l'attenzione, buon pomeriggio e buona musica da Giorgia Telesco. Soundcheck. Il suono della musica.